Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Carlo Genta presente, Pardo in contumacia. Oggi va così, ma sarà una puntata abbastanza scoppiettante. Sto usando eufemismi. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Fernati in regia, Edoardo Lavezzani in redazione. Partiamo dal calcio di campo e dal Crotone, perché abbiamo un grande ospite. Ma poi, dopo la prima pausa, dopo il traffico, accenderemo le micce con l'onorevole Taglia la Tela, con Giuseppe Cruciani qui in studio e con Rosy Bindi, che attendiamo all'800240024, numero verde. Saluto il mister Davide Nicola, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno mister, grazie. Grazie a voi. Senta, prima storica stagione sta volgendo al termine, non in maniera felicissima per la sua squadra, ma credo anche un sacco di rimpianti da una stagione iniziata senza poter giocare le partite casalinghe in casa vostra. Mi raccontavano di quelli che una volta a Crotone, non so se c'è ancora questa abitudine, Il sabato si facevano ricoverare, c'era un'epidemia di qualunque cosa, poi si affacciavano alle finestre del vicino ospedale per vedere la partita. Non so se sia ancora in voga questa tendenza, però penso che abbia pesato. Non lo so, non ci ho fatto caso, devo essere sincero. Però prova a chiedere in giro. Prova sì, a chiedere in giro. L'ho sentita. Ma in realtà io non parlo di rimpianti, non credo che sia altamente riduttivo. Il Crotone è all'anno zero, la prima stagione in Serie A. Quando ci siamo incontrati con la dirigenza all'inizio dell'anno, avevamo ipotizzato un po' di scenari, per la verità, e quindi sia la possibilità di trovarci a probabilmente già retrocessi, avendo fatto poi delle scelte particolari, quindi certo, fedeli alla politica del Crotone, che sono quelli di valorizzare dei giovani sconosciuti, prendere dei giocatori che probabilmente non conoscono in molti e di rilanciare qualcuno che non ha avuto magari una continuità nei campionati di Serie A. Questo abbiamo fatto, questo abbiamo scelto, abbiamo messo sul tavolo tutte le potenziali minacce che potevano insorgere, che potevamo incontrare. Di fatto è andato come ci aspettavamo, ma è andata anche come ci aspettavamo la possibilità comunque di poter giocare le nostre chance fino alla fine. Sì. Poi i conti li faremo alla fine, in dubbio. Sì, questo certo. Io conosco tanti allenatori, inutile nascondere, lo faccio questo mestiere ormai da molti anni, e tutti quelli che chiamo, che magari sono senza panchina, ma quando torni, questo vale da Prandelli in su, in giù, eccetera, eccetera. No, ma a me non interessano i soldi, mi interessa una società che abbia un progetto. Tutti mi rispondono così. Questo è un sì, progetto? È vero, è vero. Lo sai benissimo. Diamoci del tu che facciamo prima. Questo è un progetto? Io credo che questo sia stato fino ad oggi, e ormai sono passate, dovremmo fare la 30ª partita, un grandissimo progetto, perché come giustamente hai ricordato tu, effettivamente credo che di progetti in sé esistano pochi, nel senso che il progetto esisterebbe anche. Il problema è che poi non si è fedeli a questo, perché sì, generalmente il progetto di un allenatore dura circa un mese nelle situazioni più particolari. A Palermo pure meno. Ci sono delle realtà effettivamente che dura meno. Qui invece c'è stata coerenza dall'inizio, proprio perché secondo me si è avuto la capacità di sviscerare qualsiasi situazione, perché tutti partivamo con la grande umiltà di poter dimostrare le proprie idee e di essere fedeli a queste. Credo che siano ambienti dove probabilmente sono da ritenersi mosche bianche, sì, ma la mia scelta in questa ottica è stata anche perché sapevo di venire a lavorare con un grande direttore sportivo che ha da sempre questo imprinting, e con una società Brenna, quindi anche se poi adesso il presidente Raffaele è uscito, sia il signor Raffaele che il signor Gianni hanno sempre avuto questo imprinting, e questo è stato anche il motivo del perché io ho scelto Crotone. Senti, tu dici non ho rimpianti, però insomma dimmi che non è un rimpianto l'essere la squadra che ha perso più partite per 1-0 in Serie A e avere perso così tante partite negli ultimi minuti. Secondo me il rimpianto è in funzione di ciò che sono le potenzialità, no? Io ho sempre tenuto che questa squadra, dopo un girone di andata, potesse giocarsela tranquillamente alla pari con 4-5 realtà, e questo è accaduto. Per la verità, noi abbiamo giocato anche in modo direi convincente anche con altre realtà ben più forti della nostra. Credo che l'unico rimpianto sia nel divario che attualmente c'è come differenza tra la quart'ultima e noi, perché sì, secondo me in campo non è reale, però questo dipende sicuramente sia da alcuni errori che abbiamo fatto noi, che commettiamo e continuiamo a commettere noi, e anche da altre cose che noi non possiamo controllare e sulle quali francamente non ci interessa neanche concentrarci, perché non potendole controllare perderemo solo del tempo. Ad oggi secondo me ci sono 9 partite dove dobbiamo fare qualcosa di straordinario e conta solo concentrarci su questo. Traduco, stai parlando dei signori che succhiano il fischietto, ma questo lo lasciamo a un altro appuntamento, Davide? No, sto parlando di tutte quelle cose lì dove magari non è solo il fischietto, sarebbe, ripeto, riduttivo. È chiaro che le componenti in causa, ognuno sbaglierà, noi, i giocatori, gli arbitri, ma fa parte del gioco. Quello che non puoi controllare è magari l'aver fatto un'ottima prestazione creando delle occasioni e poi non riuscire a concretizzarle, certo. Non sempre riesci a controllare la palla che finisce sul palo dal trasformarla in gol. Chiaro. Anno del rilancio azzurro, è una nazionale che a me, ne ho parlato in questi giorni di sosta, è una nazionale che a me ispira grande fiducia, molto giovane, di grande talento. È chiaro che l'esperienza come non si compra al supermercato, come sa benissimo il compianto Massimino che voleva comprare la Malgana, te lo ricordi? È vero. Manca l'esperienza, però è una nazionale di grande futuro, cui anche il Crotone mi sembra stia contribuendo con ad esempio Falcinelli, perché è il proprietario del Sassuolo, ma sta diventando un giocatore sotto l'occhio della lente di ingrandimento di molti grandi club, e come ad esempio Gianmarco Ferrari, Capezzi, Ceccherini, insomma Ceccherini. Ce ne sono diversi che hanno lo stesso Rodie, questo svedese che arriva da un campionato diverso e che ha veramente fatto vedere grandi cose, ma potrei citare anche meno giovani come la continuità che hanno avuto per la prima volta secondo me Krizetig e Rosi, Stojan che come esterno di attacco a tre o di un'ala, diciamo di un 4-4-2, sta dimostrando grande continuità e una discreta confidenza col gol. Quindi obiettivamente questa squadra non aveva dei numeri da produrre tali per cui si poteva andare indietro nel tempo e dire ok, raggiungeremo questo risultato. I numeri ce li stiamo costruendo sicuramente, in relazione alla nazionale credo che la stessa nazionale stia comunque attuando un processo di svecchiamento, quindi da poter magari contare su determinati giovani che possano di nuovo mantenere alto il livello della nazionale italiana. Sì, ma anche te ispira fiducia questa nazionale, anche perché insomma siamo in un momento in cui c'è una vecchia guardia che sta traghettando quello che sembra essere un futuro già pronto. Sto pensando ad esempio al pacchetto difensivo, no? Abbiamo il pacchetto difensivo attualmente a oggi 30 aprile 2017 forse più forte del mondo, ma dietro possiamo già costruirne un altro che cui manca l'esperienza e non so se la maglia, ma però è comunque fortissimo. La Donnarumma, Rugani, non fa assolutamente una piega a quello che hai detto, credo che tutti in questo momento condividano le tue parole, però l'esperienza sai la fai sul campo, è quella non è che si nasce con l'esperienza, quindi credo che ci siano dei valori in quelli che hanno già molta esperienza in grado di poterla rendere fruibile subito a questi giocatori che stanno dimostrando veramente grandi cose. Davide, ti chiedo un'ultima cosa: 2 anni in Serie B al Bari, ora questa esperienza con il Crotone in Serie A, mi sembra di capire da quanto hai detto che tu voglia continuare questo progetto per l'appunto. 2 anni in Lega Pro di esperienza in una società come Lumezzane, 1 anno a Livorno, 1 anno e mezzo a Bari, insomma 2 anni in Serie A di esperienza con Livorno e Crotone, credo che sia giusta nel mio percorso, sia giusta la gavetta che stia facendo in questo momento, e soprattutto quest'anno ho acquisito ancora più lucidità nel vedere determinate cose, ciò che effettivamente conta per un allenatore. Per me era importante dimostrare delle idee in questa realtà, secondo me ci stiamo riuscendo. La voglia è quella di confrontarsi con altri palcoscenici dove il pretendere il risultato è cosa giusta, ecco. Ah, ho capito. Tutto chiaro. Grazie Davide. Grazie a te, Carlo. Grazie mille a Davide Nicola, allenatore del Crotone, che ha idee chiarissime. Allora, ci fermiamo per il traffico. Il tempo di chiamare il signor Giuseppe Cruciani. Tutti convocati. Convocati. Lei dice non bisogna sottomettersi agli ultra, ma c'è una fotografia in cui lei ha questa sciarpa con scritto Juve merda. È questo che c'entra con gli ultra che fanno violenze? Non è un messaggio di pace, diciamo. Poi lei ha anche un ruolo istituzionale, caro amico. Per carità, ma io nel momento in cui definisco una squadra in maniera negativa, non mi pare che questo non mi possa permettere di esprimere le mie posizioni. Stavo cioè, secondo lei la Juve è merda, lei non è capito. Un ultras, credo, no? Io non sono assolutamente, da un punto di vista della passione e del tifo nei confronti del calcio Napoli, lo sono. Cioè lei è un ultras del Napoli? Assolutamente sì. Cioè dire Juve merda è normale? È una cosa che ogni tanto da un punto di vista calcistico diverte. Cioè lei lo dice ogni tanto allo stadio, è Juve merda, Juve merda, che ne so. Qualche volta sì, quando lo merita assolutamente sì. Cioè la Juve è favorita, cioè i campionati sono falsati secondo lei? Beh, mi pare che alla Juventus siamo stati revocati degli scudetti. No, prima, anche adesso sono falsati i campionati. Lei immagina che quello che è accaduto nel passato ed è stato provato non possa accadere nel presente? E dunque lei dice che anche adesso viene favorita dagli arbitri, i campionati dunque sono falsati? Io penso che la Juve sia sicuramente la squadra che riceve favori arbitrali. Giuseppe Cruciani, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao. Ma tu ti è capitato di cantare allo stadio Roma merda, Roma merda? Non ero componente della commissione antimafia. Bravo, non eri componente della commissione antimafia. Cioè, a 20 anni, sì, può succedere anche a 50, cioè a 60. Sì. Cioè, sappiamo che esistono anche queste cose, anche un canto, diciamo, un coro non particolarmente offensivo, perché è offensivo, ma non è tra i più beceri, diciamo, no? Diciamo che chi va allo stadio questo lo può cantare, non lo può cantare in Parlamento. No, non lo può dire. Non è che non lo può dire. Adesso, ragazzi, lo puoi dire, poi ti assumi la responsabilità di quello che dici. Ma cioè, secondo me, se Juve merda stadio, è la parte meno grave. La parte veramente sì, gravissima è quanto ha detto dopo. È quello che ha detto dopo sulla famosa sponsorizzazione. Taglia la tela, sì. La famosa sponsorizzazione degli arbitri, che hanno questa sponsorizzazione, credo, fino al 2019, che si chiama Eurovita. Sì. E che alcuni hanno sospettato all'inizio fosse frutto di giochi strani della Fiat, dunque della Juventus. Esatto, la cosa è una bufala colossale. Una bufala totale. Colossale. Sì. Nel senso che credo che una società collegata alla Fiat aveva nel passato, prima della sponsorizzazione, una piccola partecipazione. Ma peraltro ne è uscita adesso d'anni. Ne è uscita d'anni. Mi dicono adesso che chi ha delle quote azionarie in Eurovita siano tra l'altro delle società collegate anche ad altri presidenti delle squadre di calcio. Alcuni mi dicono addirittura Suning. Ma sì, non è importante, cioè, chi se ne frega. Non è che uno sponsorizza gli arbitri per averne dopo, cioè sarebbe una cosa, oltre che ridicola, anche controproducente, perché si scoprirebbe subito, no? Non è una cosa particolarmente difficile da scoprire. Vabbè, comunque, insomma, si sono attaccati anche a questo, cioè questo taglialatera si è attaccato anche a questo. In realtà probabilmente ha letto su internet, ma un deputato della commissione antimafia in particolare, ragazzi, non è che può leggere su internet una cosa e dare per scontato quello poi che viene. In questo momento e con quello che sta succedendo, la commissione antimafia è quella che sta indagando su quanto è successo a Torino con la Juventus, eccetera. Tommaso Nabate, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ma c'è il Crux. Ciao Tommaso, ciao. Sì, c'è proprio lui. Proprio lui, stiamo discutendo del signor Taglialatela, di cui Bindi ha detto sono parole gravi e offensive alla serietà della commissione. Condivido e aspetto una Come scrive il tuo amico Andrea Monti, sì, un direttore della Gazzetta, esatto, un allontanamento del signor Tagliatella. Ma guarda, io no, a me non me ne frega niente di allontanare nessuno, cioè non sono lì a fare, facesse quello che vuole, non mi interessa, si dimette, non si dimette, la Bindi gli chiede di dimettersi, non lo so, non sono io a decidere, non me ne frega nulla di Tagliatella, è uno dei non so quanti siano i componenti della commissione antimafia. Io ho fatto quello che faccio sempre, ho parlato con questo Tagliatella cercando di tirare fuori quello che pensa Tagliatella sulla Juventus, che mi sembra abbastanza chiaro. La Juventus, beh, cioè Tagliatella, presidente, cioè il presidente componente della commissione antimafia, tifoso del sostiene Napoli, sostiene che la Juventus ruba gli scudetti. Sostiene che la Juventus ruba gli scudetti. Ora, che lo possa fare un presidente della commissione antimafia, che è un componente della commissione antimafia che sta indagando sulla Juventus, ti fa capire quale possa essere il grado di obiettività nel giudizio che poi darà sulla vicenda Agnelli-Ndrangheta. Primo. Secondo, sai, io dico semplicemente una cosa, che la commissione antimafia va cancellata, cioè è un ulteriore motivo, che un ulteriore elemento che mi conferma quello che penso, che la commissione antimafia sia un organo totalmente inutile, perché ci sono già i magistrati che si occupano di mafia, che sia un luogo, come nel passato già è successo, di grandissimo esibizionismo, dove si prende la palla al balzo, siccome c'è di mezzo Agnelli, come nel passato c'era di mezzo De Luca per altri motivi, per motivi politici e non calcistici, e si fa sfoggio di dichiarazioni, di prese di posizione, eccetera eccetera, che poi in realtà hanno un'influenza negli eventi, come è successo nel caso De Luca per quello che riguarda la politica, e in questo caso certo le posizioni della Bindi hanno rafforzato nell'opinione pubblica la convinzione che Agnelli nasconda qualcosa a livello di rapporti con l'Andrangheta. Questa è una cosa che deve decidere la magistratura, forse solo la giustizia sportiva per quello che riguarda la giustizia sportiva. La giustizia sportiva, poi possiamo aprire un capitolo su Pecorano. Certo non la commissione antimafia, a mio parere. A parere di Tommaso Labate? Ma sono sulla l'idea che si debba abolire la commissione antimafia, sono completamente contrario, cioè parliamo dell'emergenza numero uno che c'è in Italia, e quindi è un luogo in cui una riflessione politico-istituzionale, intendo la mafia ovviamente, non la Juventus, un luogo in cui una riflessione politico-istituzionale con tanto di voti va fatta. Ricordiamo per esempio quello fu l'epoca delle stragi, la commissione stragi, che diede un aiuto fondamentale alla scrittura della storia. Questo ovviamente non c'entra nulla con le frasi di Tagliatella, a parte che Tagliatella a me viene sempre in mente Pino Tagliatella, sì, storico, sì, portiere del Napoli che successe a Di Fusco, che era lo storico prima di lui. E ovviamente le condizioni minime è che Tagliatella abbandoni la commissione, anche perché si sta affrontando un tema delicato che ha delle ricadute sull'opinione pubblica molto importanti, come quello della storia della Juventus e della bigliettopoli nera della Juventus, e quindi per una serenità di collettiva sarebbe l'uomo che venisse sostituito in commissione da un collega di partito, come succede molto spesso. Quanto alla crocifissione di Tagliatella, se dovessi crocifiggere un parlamentare in questo momento lo farei per altri motivi, per l'assenteismo. No, ma non si crocifigge, Tommy, non si crocifigge nessuno, non è obiettivo di crocifiggere nessuno. Figuriamoci, io sono, molti hanno chiesto la dimissione di Tagliatella, io che l'ho intervistato e da quelle interviste è nato il caso, non ho detto si dimetta dalla commissione antimafia. Sì, per una questione di opportunità, perché la commissione antimafia in questo momento esiste. Sì, ma noi guarda, i tifosi nella commissione antimafia, anche Esposito del Partito Democratico è tifosissimo della Juventus. Benissimo. E fa in questo momento una battaglia garantista sulla Juventus, a mio parere ad un livello diverso rispetto a quello di Tagliatella, ma non scordiamoci che lo stesso Esposito fu quello che disse che cantava in curva Roma merda quando era assessore al Comune di Roma. Lo facevo quando avevo 17 anni. Lo diceva riferito. Allora, ragazzi, la questione, allora, il calcio è un tipo molto serio. È una questione molto seria, cioè nel senso che ciascuno di noi riversa nel calcio gran parte dei suoi interessi, quindi anche per quanto riguarda il tifo calcistico si prefigurano dei conflitti di interesse. Cioè io non mi metterei mai a scrivere un articolo sull'Inter, anche perché ovviamente, pur non avendo un interesse economico, è ovvio che comunque sarei portato. Vabbè, però ne parli dell'Inter, Tommaso, che c'entra? Ne parli in tutte le sedi possibili, immaginabili. Non nella mia funzione, ne parlo dell'Inter, ovviamente, ma no. Vabbè, non è che quando parli è diverso da quando scrivi, è uguale, cioè parli dell'Inter, ti riconosci come tifoso dell'Inter, poi pensi di avere una certa obiettività di giudizio, è un'altra cosa. Parlo da tifoso dell'Inter con la gente che comunque sa che io parlo da tifoso dell'Inter, non so come dirti. cioè, non decido delle sorti dell'Inter. Cioè, se io fossi un componente della commissione antimafia abituata a che dovesse trattare il caso di internet, probabilmente mi asterrei dal giudizio, perché non posso esercitare quella terzietà che ho. Questo è un elemento. Infatti, ho detto prima: secondo me, la cosa che più mi viene in mente è il fatto che, ovviamente, se si dovesse mai arrivare a prendere una decisione, non so che tipo di decisione si debba prendere all'interno della commissione antimafia sulla Juventus, certamente taglia la tela non sarà obiettivo, perché questo mi sembra abbastanza evidente. Però c'è un altro elemento che probabilmente neanche Esposito. Sì, appunto, per cui lì poi non è che possiamo fare la divisione tra chi è tifoso di una squadra e chi è tifoso di un'altra squadra, sarebbe anche ridicolo, ma io trovo ridicolo il fatto che il caso Juventus sia andato in antimafia. Cioè, tu dici di no, ma guardate che è incredibile questa cosa qua. Cioè, i magistrati, adesso lasciamo perdere la giustizia sportiva, che è un altro discorso, il giudizio che ognuno si può fare sulla famosa, quella che tu hai chiamato giustamente, bigliettopoli, no, che potrebbe riguardare anche altre squadre, eccetera, eccetera. Bravo, è questo punto. Lasciamo perdere questa roba qua, però per adesso è venuta a galla il caso della Juventus, dunque parliamo del caso della Juventus. Al di là di questo, la questione giudiziaria è stata risolta dai magistrati con una archiviazione per quello che riguarda la Juventus. Allora, io dico, perché una vicenda archiviata dai magistrati, cioè i rapporti Juventus-Ndrangheta stiamo parlando, deve arrivare all'antimafia? E se i magistrati hanno archiviato, io voglio capire per quale motivo, se non per esibizionismo, l'antimafia, che riceve comunque i faldoni da parte dei magistrati, deve iniziare una specie di secondo processo alla Juventus. Questo mi sembra, non è che si occupa di bigliettopoli l'antimafia, si occupa della mafia, dei rapporti tra Agnelli e l'Ndrangheta. Se i rapporti, secondo la magistratura, tra Agnelli e alcuni esponenti forse riconducibili, perché di questo si parla, forse riconducibili all'Ndrangheta, non sono degni di nota, non sono degni di essere approfonditi, sono stati archiviati, perché se ne occupa la commissione antimafia? Ditemi. Io sono d'accordo con tutto quello che dice Giuseppe, ma su una cosa bisogna insistere. Io, a prescindere che sono innocenti, archiviati, tutto quello che vogliamo, però lasciando anche perdere la Juve, una questione però va sottolineata con la penna rossa. Una bigliettopoli che abbia per protagonisti degli esponenti probabilmente riconducibili a una criminalità organizzata non è identica a una bigliettopoli che abbia per protagonisti gente che ci fa la cresta sopra o bagarinaggio. Guarda che non è molto ma non è molto diverso, cioè non è che altri protagonisti, capi tifosi di altre squadre, siano degli stinchi. È lì che voglio arrivare. Cioè, sono personaggi che magari non saranno, a parte che qui è tutto da dimostrare, perché questo tizio non è nemmeno questo Dominello di cui si parla e che farebbe parte di una famiglia andranghetista, sicuramente qualche parente eccetera. Lui non è nemmeno indagato per Ndrangheta. Attenzione, cioè, non è che stiamo parlando di rapporti tra lui e un mafioso conclamato, tra Agnelli e un mafioso. Io non sto assolvendo nessuno, anzi, per la gestione dei biglietti della Juventus io sono molto critico. Io penso che una società come la Juventus, poi si dovrebbe parlare di responsabilità oggettiva, del pericolo degli ultra, è una cosa, è una società che è in grado di rompere questo rapporto, per quello che riguarda con i biglietti, con la tifoseria organizzata, e dovrebbe romperlo questo rapporto. Però dovrebbero romperlo tutte le altre società. Assolutamente. No. La cosa che mi domando è una: perché un'inchiesta archiviata da un giudice, archiviata, ripeto, rapporti Agnelli-Ndrangheta, viene archiviata dalla Procura di Torino? Perché questa inchiesta finisce per diventare oggetto di discussione all'interno della commissione antimafia? La cosa mi sembra evidente, perché il tifo, come diceva Tommaso, non ha confini, e dunque è un modo per esibirsi, è un modo per parlarne, per discutere. Ma non è la commissione antimafia, non è un luogo di chiacchiericcio, non è una seconda camera non è un secondo luogo di giudizio dove si discute, allora Agnelli era mafioso o non era mafioso. È una follia questa roba qui, è una follia totale. Tommaso? Sì, il discorso sarebbe troppo lungo. Io sono in parte d'accordo con quello che dice l'amico Crux, tranne che su due aspetti. Il primo, di carattere generale, non penso che la commissione antimafia vada abolita, e l'ho detto già da prima. Il secondo è che una bigliettopoli che abbia dall'altra parte dei protagonisti che possono avere dei legami con la mafia, ed è questo quello che si cerca, diciamo, su cui si cerca di venire a capo, è una bigliettopoli diversa da quello che ha per protagonisti gente che ci fa il bagarino, gli ultras pericolosi, eccetera. No, perfetto. Allora, però poi sono d'accordo, però poi incredibilmente andiamo, d'accordo va, con, va benissimo, con il gemellato Cusani. Però poi se questo serve è il punto di partenza per far lavorare sulla la commissione antimafia anche su una bigliettopoli che succederà all'Inter, succederà al Milan, no, succederà tra l'altro voglio sottolineare un'altra cosa, Napoli, non è che la Juventus è stata indagata, attenzione, nella vicenda, da altre parti, nella vicenda a proposito di Torino, la Juventus è stata intercettata perché sono state intercettate delle telefonate di persone coinvolte in altre inchieste, ma in realtà la Juventus non è manco mai stata indagata, cioè i dirigenti della nuova Juventus ovviamente, non è mai stata indagata per i rapporti con l'Andrangheta, per cui il fatto che tutta questa roba qua finisca all'antimafia è già una contraddizione in termini, perché la Bindi si deve occupare dei rapporti archiviati, cioè non archiviati perché sono stati indagati, mai, come dire, mai in cui la procura non si è mai occupata in realtà fino in fondo perché li ha sempre considerati influenti, perché se ne deve occupare l'antimafia? Ragazzi, è una follia questa roba qua. Ragazzi, ci fermiamo qui, salutiamo Tommaso Labate, rimani con me altri 10 minuti, sì. Tanto ci sono un sacco di telefonate, come ben sai, dopo la borsa. Tutti convocati. Il 2 aprile, come è noto, è la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo. È anche altrettanto noto, per chi mi ascolta, che quello dell'autismo è un problema che mi tocca personalmente e sul quale ho spesso parlato. Tornerò a parlare anche quest'anno in 2 appuntamenti di autismo, di famiglie di autistici, degli autistici abbandonati, fantasma, quelli grandi, che non vuol vedere più nessuno. Ne parlerò a Melog, special autismo, venerdì 31 alle 12.10. Ne parlerò al Trenova speciale autismo, sabato 1 aprile alle 23.30 e domenica 2 aprile alle 11. Chi vuole ascoltarmi mi ascolti, soprattutto quelli che hanno figli come il mio Tom. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, per rispondere a tutti voi, altri 10 minuti di Giuseppe Cruciani, che poi lasciamo alla preparazione della zanzara. Intanto c'è chi mi scrive: succederà all'Inter sto cazzo. Va bene, Ulisse, magari all'Inter non ci sono infiltrazioni mafiose, ma se tutto questo serve a far luce tra la connivenza tra i club e il malaffare che senza dubbio si svolge in ogni curva italiana, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, le connessioni che ci sono tra i club e i capi ultra che lo fanno per mestiere, quello di fare i curvaioli, e che sono 30-40 per ogni curva, e che sono in contatto con le società in maniera più o meno visibile. Bene, questo succede. Se questo passaggio alla Commissione Antimafia serve per far luce su tutti questi rapporti di malaffare tra i club italiani e le loro curve, allora benvenga anche il caso Juventus. Ma no, benvenga, dipende naturalmente da quello che viene fuori, da come viene commentato, eccetera, eccetera. Non so se benvenga o no. Fatto sta che, a mio parere, c'è un problema fondamentale, che è quello della responsabilità oggettiva. Siccome le società hanno la responsabilità oggettiva per quello che accade all'interno dello stadio, è ovvio che esistono dei rapporti che secondo me sono comunque perversi, malsani, tra i dirigenti e le società e i gruppi organizzati. Spesso questi rapporti sono, addirittura ti dico una cosa che non è ancora venuta fuori bene, spesso questi rapporti sono suggeriti dalle forze di polizia. Sì. Cioè le forze di polizia, che siano esse la Digos, la squadra mobile, eccetera, eccetera, per tenerli, per è far un'operazione sì che fanno sempre, no? Le forze di polizia suggeriscono alle società di gestire i biglietti e comunque di avere rapporti, al di là dei biglietti, di avere rapporti con i capi del tifo organizzato, anche se questi capi del tifo organizzato magari hanno dei precedenti penali, eccetera, sono persone magari libere che possono andare allo stadio, certamente non sono sottoposti a DASPO, anche se qualche caso c'è stato di gente che aveva il DASPO e trattava comunque con i dirigenti di squadre di calcio. Vabbè. Ma in ogni caso, spesso sono le stesse forze di polizia a suggerire questi rapporti. Sì, perché non dobbiamo fare le verginelle da questo punto di vista. No, perché questi garantiscono l'ordine pubblico all'interno. Il mio parere è questo, io l'ho sempre detto, distruggere la tifoseria organizzata, soprattutto quella della curva, che gestisce il territorio della curva come fosse un territorio extra stato. bisogna rompere questa roba qui prima, fino a quando non si romperà, poi lo facessero fuori dallo stadio, facessero quello che vogliono, non mi interessa, è un'altra questione. Questo è chiaro. Siccome gestiscono pezzi di stadio, cioè di territorio nazionale, come vogliono, come fosse loro, questa cosa qua prima o poi va interrotta. Io sono totalmente d'accordo con te, sono per il tifo disorganizzato, ma questo lo sai benissimo, non ci sarebbe dibattito, sarebbe una cosa molto noiosa. Sappiamo che nelle curve accade che comunque ci sia spaccio di droga, sia territorio per favoreggiamento della prostituzione. Senti, sia ma nelle curve, per esempio, del Milan è successo qualsiasi cosa negli ultimi anni. Cioè, sì, sì. Adesso dico il Milan perché magari ho delle conoscenze dirette di persone che mi raccontano delle cose, ma succede qualsiasi benissimo, cosa, soprattutto a livello di spaccio. Capultra, dai, lo un capultra della Lazio è stato arrestato. Anche Lazio, quante centinaia di chili di droga aveva in casa? Era uno spaccio, a meno sembra, dalle accuse, che sembra sia uno spacciatore vero e proprio. Non so se spacciasse in curva fuori, comunque. Anche vado a spacciare fuori e poi in curva vediamo. Alessandro, buongiorno. Sì, salve, guardi, io non credo alle mie orecchie quello che sto ascoltando oggi da voi, soprattutto da Cruciani, che fa come al solito il gallo sulla spazzatura. È una cosa incredibile. Allora, siete passati da Pardo che dà ragione a tutti, va bene tutto con Pardo, a Cruciani che praticamente sta facendo il gallo sulla spazzatura. Attenzione, allora, ognuno ha le sue opinioni e se le tiene. Voi state legittimando. Poi io non sostituisco nessuno. Scusa, no, Pierluigi non c'è per affari suoi. Io non è che faccio il sostituto di Pardo. Ma io sto dicendo la deriva di questa trasmissione. Ma non c'è nessuna deriva, garantire. Dico la mia opinione. Sì, lei dica la sua, punto e basta. Ma non è la stessa cosa. No, lei fa opinione. Ma dica la sua opinione, no, ma che vuole da me? Sta facendo opinione in un certo in una io certa ho detto come la penso sulla vicenda, sì. Taglia la tela, punto. Lei la pensa male. E perché la penso male? Lo dica. Perché lei sta dicendo che la Juventus non ha intrattenuto i rapporti con l'Andrangheta. Io sto dicendo che secondo la Procura della Repubblica, che ha archiviato, secondo i magistrati che hanno, poi lei può pensare che ha i rapporti pure con Totò Riina, la Juventus, non mi interessa. Sto dicendo che secondo la Procura di Torino, che ha dal punto di vista giudiziario, secondo hanno la Procura. Hanno inviato tutta la documentazione alla Commissione Antimafia. Amico mio, hanno archiviato, non hanno archiviato tutto. La Juventus è testimone nell'ambito di questo procedimento, non c'è stata alcuna archiviazione della posizione della Juventus. La Juventus è testimone nell'ambito, non è indagata nell'ambito del procedimento. Non è indagata, ma ha avuto a che fare con alcuni personaggi che che vuol dire ha avuto a che fare? Questo lo dice la parola ha avuto a che fare, che vuol dire ha avuto a che fare? Che praticamente ha intrattenuto i rapporti, certo. Ma questo lo dice lei? Ma che lo dici tu che intratteneva i rapporti? L'ha detto la commissione. Ma cosa vuol dire ha intrattenuto rapporti? Non vuol dire niente. Vendeva biglietti. Ma a chi? A chi? Ma come a chi? A chi? Come a chi? Andranghetisti? Andranghetisti? Agli 84. Andranghetisti? Andranghetisti? A gente condannata per Andrangheta? Falso! Falso! Falso! Falso! Falso! Non ha venduto biglietti a gente condannata in via definitiva per Andrangheta. Falso! Stai dicendo falsità. Ti voglio ricordare che un signore camorrista, qualificato come camorrista, sedeva a bordo capo. Tu sarai tifoso del Napoli, se io non dico niente. Sono interista, non me ne frega proprio del Napoli. Comunque, per esempio, ragazzi, di che parliamo? Di cosa parliamo? Stai dicendo falsità, sedeva a bordo campo del Napoli. Ma di cosa stai parlando? Voi state facendo in modo. Ma cosa? Ma chi dice niente? Per me si possono fare tutti. Cosa? Voi state facendo passare l'idea che tutte le società fanno in questo modo. Le dico un'altra cosa, che il Napoli non ha parlato di nulla fino a adesso, mi risulta che il Napoli ha responsabilità, bisogna accettare, parte delle responsabilità della commissione antimafia. Che è andata a dire. Ma lasci perdere, questa è una sua convinzione, che sia un imbecille, quello lo dice lei. Il punto è un altro. Sto dicendo che molte società, non abbiamo detto tutte le società, molte società, come diceva prima Carlo, intrattengono rapporti con la tifoseria organizzata per la vendita dei biglietti. Ho anche detto che secondo me quello che ha fatto la Juventus non va bene. Io l'ho detto anche prima, se lei ha capito bene, se ha le orecchie pulite. Ho detto esattamente questo. È una cosa che si può negare? No, non si può negare. Per esempio, mi risulta che il Napoli, da questo punto di vista, abbia una posizione più virtuosa, almeno da quello che mi dicono, io non lo so, che De Laurentiis abbia rotto i rapporti con la tifoseria organizzata anche da questo punto di vista, tant'è che mi dicevano che i tifosi, alcune, una parte piccolissima di tifosi rimpiange addirittura i tempi di Ferlaino, si figuri un po'. Per cui di cosa parliamo? Non abbiamo generalizzato, abbiamo detto che molte società intrattengono rapporti provati con la tifoseria organizzata per la rivendita dei biglietti, punto e basta. Non abbiamo assolto la Juventus, non siamo mica in tribunale qua. E poi non ce ne frega neanche nulla di assolvere la Juventus, detto per inciso. Traffico, che fai? Rispondiamo a Moreno, Marcello? Sì, certo. Resta un attimo. Convocati. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Andiamo a continuare il discorso con Moreno da Milano. Moreno, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Ciao Carlo, un abbraccio a Cruciani. Io volevo dirvi due cose veloci. Una, che i biglietti consegnati alla Juventus, se leggete bene gli atti, avvenivano all'interno della questura del Corino, con la Digos presente. Quindi già questo dovrebbe farvi riflettere. La seconda cosa, se magari dite a qualcuno che la 'Ndrangheta è la mafia più famosa del mondo e più potente, purtroppo, secondo me bisogna rivendere 100 biglietti allo stadio la domenica. Cioè, di cosa stiamo parlando? Sì. Secondo me è una pazzia. Qui sono quattro sfigati, come sono quattro sfigati quelli della commissione antimafia, che non sanno cosa fare durante il giorno. Sì, no, ma io sono su quest'ultima cosa, sono d'accordo con lei, però. No, io sono più d'accordo sulla prima, ma comunque. Sì, no, per carità. Marcello Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi chiedevo solamente. La Juventus è senz'altro la società italiana più tifata in meridione, ha un fatturato da media azienda. Sì. Come si può pensare che faccia mercato in meridione senza avere accordi con le mafie? Ma come potete dire certe cosa cose? Cosa vuol dire fare mercato con gli accordi? Non ho capito. Ma fare mercato, merchandising, vendere biglietti, qualsiasi cosa tu voglia, cioè, fare merchandising in meridione, al sud con la mafia. Ma che vuol dire concretamente? Invece di dire puttanate come questa qua. Scusa, no, Carlo, no, se puttanate mi... l'hai detto tu prima, perché quel signore di Napoli ti ha detto sinceramente quel che è giusto che ti senti dire. E vabbè, d'accordo, perché infatti sono qui e ho risposto. Vedi, perché sei in una posizione di preeminenza, tu interrompi gli altri. Ma io non ti sto interrompendo, stai parlando, qual è il problema? Lasciami parlare. E stai parlando? Il mercato in meridione di quell'entità si fa solamente con accordi ben precisi. Ma qual è il mercato? Non ho capito qual è il mercato. Qual è il mercato e quali sono gli accordi? Non ho capito qual è il mercato. Ma secondo voi come si fa a fare 350 milioni di fatturato senza vendere magliette, gadget e tutto il resto cosa in meridione? Ma cosa c'entra? Ma cosa credi di andare a vendere se non sei d'accordo? Ma allora, di con allora il Barcellona con il Real Madrid cosa sono? Alleati alle mafie russe e cinesi? Italia, ragazzi, no, non facciamo la vecchia, cosa vuol dire? Non faccia il professore, scusi un attimo. Il fatturato della Juventus, lei lo ha collegato, siccome sta dicendo delle cose gravi, lei sta dicendo che una parte del fatturato, sta dicendo che una parte, non so quanta parte del fatturato della Juventus attraverso... Ma lo stesso dicasi della Barilla, di qualsiasi altra azienda, senza mettersi in accordo. Ma quale mercato al sud? Di quale mercato al sud parla? Le magliette si vendono via internet, di che parla? Cioè le magliette si vendono via internet, le magliette si vendono via internet. Non ci sono Juventus store, ci sarà uno, non lo so se c'è. Ma su che cosa? Scusi, io non ho capito di che sta parlando. Quale sarebbe il mercato della Juventus per cui avrebbe a che fare con le mafie al sud? Me lo deve spiegare, qual è il mercato? Ma lei, signor Cruciani, ha mai fatto delle fatture in meridione? Diverse. Ma quali fatture in meridione? La Juventus fa il fatturato con gli sponsor, con gli sponsor, con lo stadio. Ma cosa c'entra con le fatture in meridione? Ma quali sono le fatture in meridione della Juventus? Di cosa sta parlando? Di merce. Ma merce quale? Quale merce? Quello vendono il prodotto Juventus, il marchio Juventus in tutto il mondo attraverso vari canali. No, in tutto il mondo senz'altro sì. Ma sicuramente che ci siano accordi sicuri e leali poi, alla fine, perché io non sto discutendo questa dinamica commerciale. Non so di che parla. Allora, faccia la vecchia dicendo che non c'entra niente. Ma cosa non c'entra? No, Allora, io dico questo. Se uno a Catania vuole comprare una maglietta della Juventus che non sia taroccata, va in un negozio e la compra. La maglietta viene distribuita dallo sponsor tecnico della Juventus, va da Footlocker, compra, faccio per dire, e compra la maglietta della Juventus. Non so se c'è uno Juventus store. Se quel negozio lì paga il pizzo alla mafia, è un altro discorso. Se quel negozio lì paga il pizzo alla mafia, è un'altra storia. La Juventus incassa gli stessi soldi che incassa quando vende una maglietta della Juventus a Milano. Io in questo non vedo, non riesco a vedere alcuna connessione con la mafia. Mi spiace, Massimo. Salve, buongiorno, buongiorno. Allora faccio una premessa: io ho frequentato le curve per una ventina d'anni e che nelle curve ci sia la delinquenza. Fino a quando? Scusi la mia curiosità: fino a quando? Per una ventina d'anni, da quando? Due anni fa. Fino a due anni fa. No? Benissimo. Allora, che la delinquenza esiste nelle curve, questo è il suo dato, ma come esiste nelle curve, esiste nel Parlamento, esiste nella sanità. Può essere, i drogati, gli spacciatori, vi faccio finire a parlare, non esiste solo nella curva, ma esistono anche nei parlamentari, nei medici, i rapporti che si facciano anche i parlamentari, i medici, questo non lo mettiamo in discussione. No, che spacciano, spaccia ovunque, non solo nelle curve. Non abbiamo detto che si spaccia ovunque, ho detto che in molte curve c'è una diffusione, ci sono stati dei personaggi arrestati che poi si è scoperto che erano anche degli spacciatori o dei criminali. Ma questo in politica, nel Parlamento non ci sono. Vabbè, ha ragione lei. Voi avete fatto passare questo messaggio che tutte le società intrattengono rapporti con la criminalità organizzata. Ma non abbiamo detto questo. No, ma chi ha detto questo? Ricordo che il signor De Laurentiis 6 anni fa ha avuto per 4 giornate lo stadio chiuso perché gli ultras, quelli là criminali, quelli appartenenti alle organizzazioni mafiose, ma lo abbiamo detto prima. Lo abbiamo detto prima che Napoli sembra, dalle notizie che abbiamo, poi non siamo specialisti di questa cosa qua, ha rotto i rapporti con i gruppi organizzati di ultra. Lo abbiamo detto prima. Lei probabilmente o non ha sentito oppure ha qualche altro problema, evidentemente. Lotito gira sotto scorta ormai da lustri. Antonio, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Signor Cruciani, buongiorno anche a lei. Salve. Guardi, io volevo... il discorso è un po' complicato. Io volevo innanzitutto rispondere al signore di prima, nella quale diceva che al Meridione la Juve fa fatturato... ma sono fuori di un momento. Voglio arrivare al punto. Forse il signore non sa che in Calabria ci sono tanti club doc, Juventus, dove si può andare a comprare il biglietto per la trasferta allo stadium, dove si può fare merchandising e dove addirittura ci sono gadget e compagnia bella. E quindi non solo, forse qualcuno non sa che qualche giorno fa il signor Dominelli, vi ricorderete sicuramente chi è, lo saprete, ha fatto delle dichiarazioni nella quale scagiona sia il presidente Agnelli sia scagiona la Juventus, nella quale lui dice che non ha mai, sottolineo, ha avuto rapporti con la Juventus in questo senso. Questa è una storia. Allora, non abbiamo più tempo. Questa è una storia che comunque sulla quale sta lavorando l'antimafia, famosa commissione antimafia che Cruciani non per vuole carità, più. Per carità, l'antimafia sta lavorando la procura di Torino. E al momento la Juventus è testimone. Grazie Giuseppe. Ciao ragazzi. Divertiti dopo. Sentiamo dopo il GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Oscar, mi aiuti? Eccomi. No, stai attento, prendila di lì. Ma cosa? È scivolosa. Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive e schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. ci arriviamo, mi auguro bene, perché il periodo che precede questa gara è un periodo ricco di successi e di punti da parte nostra, e quindi affronteremo il Napoli, che è una squadra, una rivale molto, molto temibile, molto rispettata, con il giusto entusiasmo, ma anche con l'attenzione e la serietà che merita una squadra come quella partenopea. Beh, volendo, domenica sera c'è anche Napoli-Juventus sul campo, non solo nelle aule di tribunale e dei palazzi della politica italiana. Volendo, c'è anche Napoli-Juventus sul campo. Gianni Balzarini da Mediaset. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno. Allora, come arriva la Juventus? Lo chiedo anche a te, oltre alla domanda che è stata fatta a Gigi Buffon. Il grande dubbio, inutile girarci intorno, è legato a Dybala, appena tornato dall'Argentina, non ha giocato, eccetera. Io scommetto 2 lire che lo vedremo in campo al San Paolo. Ti aggiungo un'indiscrezione di dubbio, perché oggi Mandzukic ha svolto degli esami, e quindi in questo momento fino a 10 minuti fa non era sul campo ad allenarsi con i compagni, però dalla Juventus dicono non c'è nulla di preoccupante, per cui attendiamo eventualmente notizie, però insomma, se non c'è nulla di preoccupante, bisogna capire se questo nulla di preoccupante è già riferito a domenica o se invece deve essere posticipato di una settimana, insomma. Sì. Attendiamo questo tipo di notizie. Al momento sembra non esserci nessun allarme particolare, cerchiamo di avere conferme in giornata. L'altro interrogativo sì è Dybala, ma è un interrogativo sì legato, se vogliamo, alla sua contrattura muscolare, sicuramente, anche se il fatto che sia andato in panchina contro la Bolivia, il fatto che dalla nazionale argentina avessero detto che era tutto a posto, fa pensare che clinicamente lui sia a posto, sia guarito. Resta il fatto che verrà controllato anche dallo staff medico della Juventus, non sarebbe la prima volta che uno staff medico di un nazionale si pronuncia in un modo, uno staff medico della Juventus si pronuncia magari in un altro, quindi attendiamo anche qui eventuali riscontri. In più c'è da considerare che il suo trasferimento dalla Bolivia all'Italia è stato piuttosto lungo, ammesso che sia già arrivato, nel senso che dalla Bolivia all'Argentina c'era comunque uno scalo, un altro scalo dall'Argentina all'Italia, e quindi un viaggio piuttosto faticoso. Allora, diciamo sostanzialmente che per Cuadrado e Rinconca, che loro sono rientrati a Sud America, e per Dybala si potrebbe parlare di veri allenamenti da domani e sabato, ammesso che si possa considerare vero allenamento quello di domani, perché c'è anche un fuso orario da smaltire, quindi solo sabato verrà presa una decisione per i sudamericani e soprattutto per Paolo Dybala, perché appunto deve essere anche ricontrollato. Allora, Buffon ha parlato anche in maniera molto lusinghiera del Napoli, lo sentiamo. Il Napoli sia una delle espressioni migliori di calcio a livello internazionale, questo è indubbio. Penso che grandi meriti vadano all'allenatore, perché è innegabile che ci sia una filosofia e un'identità di gioco ben riconoscibile e riconducibile a lui. Ed essendo appassionati di derby, Mediaset, Gianni Balzarini, Sky, Massimo Golini, che saluto. Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao. Buon pomeriggio. Ciao Gianni. Allora Massimo, invece le preoccupazioni a Napoli si chiamano Reina e Isai. Cosa succede su quel fronte? Ma guarda, Isai bisogna attendere. Da valutare oggi, è un giorno importante, anche se la caviglia non si era gonfiata. Isai ha sempre questo problemino, polpaccio che si porta periodicamente dietro, ieri francamente c'era un velato ottimismo sia su Reina che su Hamsik. Oggi c'è un allenamento importante perché di fatto quello con il gruppo al completo, gli USAI permettendo, e dunque secondo me questa sera si potrà avere un'indicazione abbastanza chiara sulle condizioni di Reina e di soprattutto gli USAI. Però insomma sarei abbastanza ottimista su Reina, bilancio. Sugli USAI bisogna attendere oggettivamente, tanto la caviglia comunque non si è gonfiata. Tanto Diawara è stato fatto lo sconto dalla sua nazionale, ha potuto tornare a giocare a carte insieme al gruppo, dall'altra parte... Sì, non dovrebbe aver risentito particolarmente di questa trasferta il Napoli, francamente, di questo giro di nazionali. No. Gli ultimi a rientrare sono stati Mertens e Insigne, che sono in questo momento i due giocatori che stanno marcando la differenza. Insigne non ha giocato contro l'Olanda, Mertens 25 minuti. Solo una questione di viaggio, neanche di fuso, insomma. Sì, è una questione solo di prendere un aereo. Dall'altra parte si è giocato a carte, ma con Higuain, insomma, benedette ammonizioni a Higuain, che è potuto tornare prima. Insomma, da entrambe le parti sono stati fatti un po' di conti, un po' di calcoli, diciamoci la verità, no? Sì, assolutamente sì, ha fatto un bel conto, ha pagato anche un bel conto Koulibaly quattro giorni fa, perché a Londra c'era stato un po', l'abbiamo raccontato, c'era stato un problema di bonifica della federazione senegalese, quindi in albergo non era arrivato il pagamento, ha dovuto anticipare la sciocchezza di 25.000 euro, però insomma, ma poi, che cosa vuoi che sia per Koulibaly? Sembra che glieli abbiano rimborsati, sembra, no, però comunque entrando anche nell'idea di formazione, dovrebbe essere ovviamente la migliore possibile con i tre titolarissimi, di fatto con Mertens a guidare l'attacco, con vediamo Usai, l'unico in dubbio, poi Albiol, appunto Koulibaly. Guarda, mi tengo aperto l'unico ballottaggio al centrocampo di Diawara, Jorginho francamente in questo momento leggermente favorito, anche perché dovrebbe giocare Allan, e nel gioco delle coppie, le coppie sono Allan, Jorginho o Diawara, Zielinski, a meno che poi non rompa questo equilibrio Maurizio Sarri, ma non dovrebbe, quindi punto più su Jorginho, ma sì. questo è poco altro. Uno dei grandi temi, anzi forse il tema, Gianni, come arriva Higuain a questa partita? Ci arriva, io l'avevo sollecitato su questo tema in tempi, diciamo, non sospetti, nel senso che si parla di più o meno 2 mesi fa, per un evento al quale aveva partecipato uno sponsor a Milano, e lui aveva detto che non sarebbe stato nulla di particolare per lui, insomma, che lui avrebbe pensato solamente a giocare queste due partite, ammesso che le giochi entrambe perché comunque immagino che ci sarà un po' di turnover tra le due gare, però non aveva fatto trapelare nessuna situazione particolare. Poi è chiaro che, come diceva anche ieri Buffon ai nostri microfoni, al momento, quando un evento è lontano, lo vivi in una certa maniera, con più si avvicina lo vivi magari in una maniera diametralmente opposta. È innegabile ed è umano che lui senta questa partita. Sta a vedere se tutto questo si può trasformare nel suo caso in carica particolare, o se invece potrà andare a condizionare la sua prestazione. Ecco, questa è una cosa che solo il campo dirà. Volevo fare una rettifica rispetto a quello che ho detto prima. Ho parlato di esami per Mandzukic. In realtà il termine esatto che trapela, diciamo, da ambienti juventini è test. Sì. Sono dei test, quindi... Giocano tutti, dai, ragazzi. No, questa partita non se la perde nessuno. Io sono sempre dell'idea che innanzitutto siano due partite, sia quella di domenica che quella di mercoledì, bellissime, e che ogni giocatore vorrebbe appunto giocare. Il problema degli allenatori sarà quello di cercare di gratificare un po' tutti nell'arco di queste due sfide, puntando ovviamente sempre al massimo dell'obiettivo. Dimmi, però... Massimo, Gianni. No, Massimo, Sarri non è molto incline alle sì, no, quello lo so. quello lo so. Per questo sconosciuto, o meglio, abbastanza stitico, diciamo così, in questo senso. Sì, no, immagino, per carità. Io ho fatto cercare di accontentare un po' tutti, che sì, poi riesca. Sono due partite profondamente diverse, perché una è molto importante per il Napoli, che deve non tanto rincorrere una lepre Juventus quanto stare sulla tenere sulla corda la Roma. La Roma, questo è evidente. L'altra parte da un risultato pregresso di un 1-3 che è molto difficile da ribaltare, quindi anche questi due conti vanno fatti nel distinguere le due gare che ci attendono. Comunque, scusa se mi permetto, è una gara delicatissima, perché attenzione, perché si dà per scontato che praticamente il discorso scudetto sia praticamente chiuso. Io dico che è vero che la Juventus sul Napoli ha 10 punti, ma bisogna considerare che se la Roma ne ha 8, la Roma gioca in casa contro l'Empoli, se non vado errato. Ed è chiaro che un passo falso della Juventus con una Roma a meno 5 ed uno scontro diretto all'Olimpico, che è vero che è la terz'ultima partita, però attenzione, può diventare importante in chiave campionato. Non dimentichiamo che la Juventus poi avrà Chievo e Pescara, sì, ma in mezzo alle due sfide col Barcellona, e tu mi insegni che in mezzo a due sfide così anche le partite sulla carta semplici possono diventare psicologicamente difficili. Questo è indubbio, quindi in teoria vale molto delicato. Molto delicato, chiaro, è un passaggio cruciale, però è tutto sulla carta. Perché è chiaro, allora tutti vorrebbero essere al posto della Juventus alla vigilia di tutti questi impegni, ci mancherebbe altro, però è una ipotesi assolutamente da considerare questa, cioè il fatto che ci possa essere una parziale quantomeno riapertura del discorso del campionato. Per chiudere con Massimo Guolini, invece, come sarà accolto Higuain? Io ho letto varie cose, l'ironia dei napoletani non si smentisce mai, anche per lui non abbiamo soldi da spendere per gli striscioni. Questo non sì, soldi da buttare via. È uno dei tanti aspetti. Guarda, sta crescendo un sentimento di indifferenza. Stento a credere che riusciranno tutti a mantenere questo tipo di atteggiamento, e credo che il pernacchio, insomma, sarà il denominatore comune della serata. Ma questo ci sta ampiamente, no? Ci sta tutto, ma ci mancherebbe, no? Viva Dio, finché resta circoscritto in questi termini. Però ecco, sentivo, ascoltavo quello che diceva Gianni. Te lo dico per esperienza, tornare a Napoli è sempre emozionante. Io sono molto curioso di vedere la reazione di Gonzalo Higuain quando entrerà al San Paolo. Ma io credo che avrà le farfalle, nella pancia. È un stadio che produce belle sensazioni e non può essere per lui, poi al di là ovviamente Gianni, ci mancherebbe, delle dichiarazioni di facciata, non sarà assolutamente semplice secondo me da gestire emotivamente. Io credo che ce l'abbia già le farfalle nello stomaco. Il motivo ci sarà. Higuain, ma no, ma certamente. Ma poi ne parlavamo ieri, insomma, i traditori sono altri, sono quelli dei parametri zero. In tutta questa storia l'affare l'ha fatto Higuain andando a giocare nella Juventus e probabilmente vincendo il campionato e chissà una Coppa dei Campioni, l'affare ha fatto a Napoli riempiendo le casse e rifacendo la squadra. Grazie ragazzi, buon lavoro a voi. Ciao a voi. Ciao Massimo Ugolini da Sky e Gianni Balzarini da Mediaset, Leonardo da Milano, ciao anche a te, buongiorno se preferisci. Buongiorno, ciao, va benissimo, ciao. Complimenti intanto per quello che fate per noi appassionati. Volevo intervenire e dare una rettifica sull'intervento che voi avete già ritenuto più interessante, fatto da un signore poco fa, riguardo a quello che la Juve dovrebbe fare per commerciare al sud. Uno che commercia al sud il merchandising Juve si rivolge all'Adidas, dopodiché sarà la Juventus a rivolgersi all'Adidas. No, lo dico perché, ecco, collaboro con un ragazzo che vende queste cose e quindi fa spedizioni ovunque, ma quando ordina materiale Juventus lo ordina dallo sponsor tecnico. È chiaro. Detto questo, trovo sia penoso che le società di calcio comunque debbano sottostare a certi piccoli ricatti che le curve impongono, lo fanno tutti, lo sappiamo. Proprio piccoli, ma in molti casi magari non sono. Sì, indubbiamente. E lo scandalo è che le società debbano scenderci a patti perché non si riesce a garantire una sicurezza. Ma su questo allora io su questo non sono d'accordo con Cruciani. Se questo passaggio in commissione antimafia, che secondo me ha ragione di essere, di esistere in Parlamento, servirà come punto di partenza per sradicare i rapporti perversi, per fare luce sui rapporti perversi tra i club italiani e le attività malavitose, non tanto piccole come dice lei, che avvengono nelle curve italiane, allora ben venga. Poi contiamo che un giorno o l'altro il signor Pecoraro fa desecreti quelle carte secretate, e per far luce complessivamente su questa vicenda. Poi mi auguro appunto che serva come punto di partenza, perché tanto piccoli i rapporti malavitosi tra i club italiani e le loro tifoserie, non tanto piccoli questi rapporti perversi non sono. Massimiliano da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Allora, io riprendo questo annoso argomento perché, vabbè, francamente le questioni legate al fatto che piove, governo ladro, forse è ora di smettere di trattarle, nel senso che comunque la Juventus, come diceva l'ascoltatore precedente, è una società modernamente organizzata che lavora per business unit, e le business unit sono moltissime perché sono diritti televisivi, proventi da stadio, sponsorizzazioni, incentive con le aziende e merchandising. Il merchandising, come diceva l'ascoltatore precedente, viene fatto attraverso un accordo con uno sponsor tecnico, in questo caso è l'Adidas, la quale è titolare del marchio in concessione. Certo. E alla Juve riconosce di fatto una royalty. Certo. Di conseguenza la Juve non fattura niente al Meridione o da qualunque altra parte, perché la Juve fattura Adidas, la quale poi è proprietaria. Vende le magliette, se poi, come si diceva prima, i negozi al sud sono costretti a pagare il pizzo che vendono le magliette della Juve, questa è veramente un'altra faccenda su cui non abbiamo né conoscenze né controllo, tantomeno. Saluto il mio amico Stefano Meloccaro invece, buongiorno. Come va Carlo, buongiorno, buongiorno. Io perché bene. Giorno? Per me è sera inoltrata, visti gli orari che sto facendo. Sì, stai vivendo... Per voi normali... No, ma lo so che stai vivendo sul fuso orario del Giappone, no? Più o meno vivi in Giappone. Sì, per edicola fiore, che si sveglia all'alba, sì. Ce la fai? Sono un po' preoccupato devo, per te. Devo, sai, non ci possiamo mica risparmiare, no? No, anche perché con i fornelli non è andata benissimo. Beh, adesso ma non è che però dobbiamo sollevare questa questione. Sarà stata la stanchezza, Stefano, sarà stata la stanchezza, oppure come dice il tuo amico Fiorello, avrai tante qualità, sì. Ma... cucinare. Galeotto fu il risotto, però vorrei certificare che per accedere a Celebrity Masterchef ho superato fior di provini, cioè non è che sì, m'hanno preso. Perciò stiamo parlando, ragazzi, di gente che ha fatto la storia della cucina. Poi un risotto sbagliato capita a tutti, ma per carità, è come un dritto sbagliato, un servizio in rete, mi insegni, professore. No, va detto che vorrei togliere qualunque dubbio. Non portiamo sfiga a noi, visto che sei stato eliminato quella sera, certo, che ti abbiamo chiamato, perché l'altro giorno abbiamo chiamato Pippo Magnini nel giorno in cui è andato in onda la seconda puntata e ha brillantemente superato la prova. Quindi non portiamo sfiga. Diciamo che Magnini è un pochino più abituato a vivere, capito? A coesistere con la pressione, ecco, mettiamola così. E da un certo punto di vista anche con la pentola a pressione. Con la pentola a pressione. Dimmi una cosa in tennis invece, Stefano. Come la mettiamo, guarda, con Fognini? Guarda, con Fognini la che mettiamo. Batte Nishikori. Io direi che per l'ennesima volta, perché te l'ho già detto altre volte in cui ci siamo sentiti, il ragazzo va tantino rivalutato, perché io giro per tennis, per circoli, e il sentore in Italia è ma quel Fognini però, ma con quel talento lì. Cioè, ragazzi, Fognini, quando tra qualche anno smetterà, noi gli dovremo fare una statua marmorea, anzi bronzea, e metterne una in ogni circolo di tennis italiano, perché comunque questo tipo di soddisfazioni qui, questo tipo di momenti, sostanzialmente ce li fa vivere lui. Sì, la partita sì, contro Nishikori, è vero che Nishikori non è in un buon momento. Sì, ho capito. Anche Fognini tante volte non è stato in un buon momento. No, quando gli parte l'embolo, anche... quando gli si chiude la vena, esatto, quando arriva il suo gemello pazzo, sì. Però qui ha giocato una grande partita, gioca una grande semifinale contro Nadal, lo ha battuto 3 volte di recente, per cui è lecito aspettarsi grandi cose, ha il talento per batterlo ancora, è in un grande momento e viva Fabio Fognini, voglio dire, anche lui è uno che coesiste ogni giorno con la pressione, ha tanti fattori di pressione attorno a sé, sì. Per cui certe sue reazioni certe volte dipendono anche da questo. Sì, ogni tanto gli ogni tanto sbrocca, speriamo che vada, intanto gli schioppa l'embolo, sì. Intanto dopo questa vittoria su Nishikori al Master 1000 rientrerà comunque nei primi 30 al mondo, per la cronaca. Che è fondamentale, bravo Carlo, perché vuol dire essere testa di serie in tutti gli slam. E per un giocatore è un'altra che vuol dire essere in Serie A, perché se sei fuori dai 30 sei in Serie A2, cioè al primo turno puoi capitare contro Federer. Chiaro. E se chiaro. Testa di serie è un'altra storia, giustissimo. No, non hai citato Federer a caso, visto che anche in questo Master 1000 sta dicendo a tutto il mondo: attenzione, ci sono ancora. Gioca contro Berdych, che l'ha battuto credo mezza volta. Sì, 100 voti precedenti credo siano 152-1, per cui sì. Non è lì grande merito però al nostro amico Ivan Ljubicic, anche questo sono costretto a ripetermi, però ragazzi, in questa resurrezione ennesima di Federer c'è lo zampino di Ivan, sì, che gli ha spiegato tante, guardate come gioca il rovescio Federer, guardate come non va oltre i 5 scambi, sono tutte cose che io quando Ivan lavorava a Sky sentivo dire da Ivan quando commentavamo le partite di Federer, capito? Ne ho viste tante vicine a lui, sì. Guarda caso adesso Federer le ha messe tutte in pratica, adesso le vedi messe in pratica, mica male come esperienza, sì. Stefano, sì, ci sentiamo presto. Ci vediamo a Sky, sentiamo presto. Ti aspetto la domenica mattina a Sky. Ciao. Quando vuoi, ciao Stefano Meloccaro. Chiudiamo qui questa puntata. Bravo detto che era effervescente. Manteniamo le promesse noi di tutti i convocati. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.